everybody, this is John Connolly of Nuclear Assault. You are listening to Under Us on Do It Yourself Radio. Please call in your support. Bella raga, sono Pietro, anche di Solo Vinili Libri, e io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai eh! È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Non delegare, partecipa. Ventuno e dodici minuti primi. E dopo Allegro con Fuoco, l'appuntamento alle ore 21 con Do It Yourself Invasion. Siete sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Di Roma e dintorni. Mentre attraverso lo streaming al www.ondarossa.info. Progetto nato libero nel 1977. Quindi tra qualche mese andremo a festeggiare i 39 anni di autogestione e autonomia di Radio Onda Rossa. Sempre attraverso il sito www.ondarossa.info, andando a cliccare su Sostieni, potrete sostenere la radio. Quindi sarete indirizzati a una pagina di PayPal. Radio che di certo non campa d'aria. Potete sottoscrivere anche attraverso lo storico conto corrente postale, il 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Voci 56 00 185, Roma San Lollo. L'email di redazione ondarossa@ondarossa.info, nonché l'email di trasmissione fantasma@ondarossa.info. Poi se volete far conoscere il gruppo in cui suonate, potete contattarci. Saremo ben felici di ospitare qualche disco sul banchetto. Insomma, un modo per farvi conoscere e sostenere la radio nello stesso momento. Non per ultimo il numero di telefono 06 49 1750. Dopo un po' di puntate con molte chiacchiere, un saluto a Claudia che ci è venuta a trovare giovedì scorso. Vabbè, ciancio alle bande, quindi una puntata dedicata a un po' di proposte. Noi cominciamo con gli Zidima. Titolo della traccia che è lo stesso dell'album, Buona Sopravvivenza. Impact da Ferrara. E i membri degli Impact suonano adesso negli Yes We Kill. Questo dall'uscita del 2014, Yes We Kill. Come le zanzare da Ferrara. Spostiamo nella provincia di Brindisi. Loro sono gli Squalo. Insomma, altro gruppo che va ad arricchire la scena prolifica pugliese. Questa ce la riascoltiamo da capo. Loro sono gli Squalo. Una vita nuova su questa terra. Questa terra, nati sapendo che un giorno ne andrai e avrai paura quando le trai. Loro invece vengono da Messina. Sono i Bunker 66. Da Screaming Rock Believers. Questo è Ghetto Dwellers. Però anche loro da capo, eh? Yeah. loro sono i Children of, of Technology da Padova. Qui del loro It's Time to Face the Doomsday, uscito nel 2010 su Agipunk. Poi comunque sul palco si vestono da superstiti di un olocausto nucleare, quindi. Invece con questa diamo un saluto a Torino da quelle parti, magari qualcuno è all'ascolto. Loro sono i Rancore e questo è Sogno Collettivo. Il mondo intero è in guerra, ma non si sa con chi. Numerosi fronti sono aperti, ma di nemici neanche l'ombra. Gli eserciti registrano comunque notevoli perdite, dovute ad incidenti, malattie, intossicazioni, atti terroristici, insubordinazione, fuoco amico, scaramucce tra soldati dello stesso esercito ed altri eventi più o meno contingenti. Lo stato di guerra, comunque, torna comodo a tutti. Quindi, anche se c'è carenza di nemici, una guerra conviene sempre combatterla. Loro padre e la loro guerra. 21:44 minuti primi, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9. Già uscito nello split con i Contrasto. Come il soffitto di una chiesa bombardata, uscito nel 2014. Un po' presente sull'ultimo disco dei Kalashnikov, L'algebra morente del cielo. Chi sta in alto dice: questa è pace, questa è guerra. Mentre ascoltiamo da Cremona sotto I Lamantide. Suoneranno questo sabato a Roma. Insomma, siamo curiosi di vederli. Qui dal disco appena uscito, Carnis Tempora, Abyssus. E questa è la prima traccia che riascoltiamo da capo. Trasfigurato, piombo in oro. We'll be right back.

Gospel Paul Chain, questo è Sangue. Andiamo a chiudere questa puntata. Non prima di ricordare che domani, 20 novembre, in via del Porto Fluviale, 18, fronte del Porto Fluviale, presentazione di Scarceranda, uscita da pochissimo. E quindi ci sarà la presentazione dell'agenda e a seguire una cena a sostegno di Radio Onda Rossa. Thank you. mentre sabato al centro sociale Ipo di Marino, via del Giardino Vecchio, P38 Punk, The Street, Sin The D e Running Away. Quindi un saluto a tutte e a tutti. L'appuntamento è giovedì prossimo, dalle ore 21. Vi lasciamo con Apostasia. Quindi rimanete in ascolto. Carry my heart.